prende il via, Trenta e qualcosa tour, ovvero si riparte con i festeggiamenti per i 30 anni dei Pancreas, e la band si esibirà a Bologna questo venerdì 27 maggio al Link per una delle tappe di questo tour. Per parlare di questo importante traguardo siamo in collegamento con Paletta dei Pancreas, a cui do il benvenuto a Radio Città Fujiko. Paletta, buon pomeriggio. Ma buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Fujiko. Oh, mi mancava la vostra radio, era tanto tempo che non ci sentivamo. E noi siamo contentissimi di risentirci per questo importantissimo traguardo. Tra l'altro, dopo il concerto sold out del 25 gennaio 2020 all'Alcatraz di Milano, c'è stato poi lo stop forzato di 2 anni per la pandemia, quindi ti chiedo quanto è importante riprendere i festeggiamenti per il vostro 30° compleanno con un nuovo tour. Ma tantissimo, tantissimo, anche perché infatti l'abbiamo intitolato 30 e qualcosa tour, perché alla fine adesso sono 32 gli anni. Sì, è stato importantissimo un po', penso, per tutto il settore, soprattutto, beh, a parte noi musicisti abbiamo tenuto botta, ce l'abbiamo fatta tenere botta, soprattutto per tutto l'entourage, per tutti quelli che girano dietro ai concerti, per gli stessi baristi dei locali. Insomma, è stato un movimento che è stato un po' bistrattato, e quindi la partenza è stata importantissima per tutti, e devo ammettere che siamo partiti col botto, nel senso che la gente ha capito il valore della musica e i concerti stanno andando molto bene. Oltre al riferimento ai 30 anni, questo 30 e qualcosa tour scritto XXX, si può dire che anche i concerti avranno un formato XXX? In che cosa consisteranno? Assolutamente sì. Niente, abbiamo deciso già, appunto, come dicevi te, 2 anni fa, di preparare questo spettacolo che verrà diviso in 2 parti. Diciamo, la prima parte che ci vedrà esibirsi con le canzoni dal 1989 al 2000, e la seconda parte dal 2001 fino al giorno d'oggi. Quindi ripercorreremo tutta la nostra storia con le canzoni che sono rimaste nel cuore a tutti i nostri fan. Da quel 25 gennaio, quindi l'ultimo momento dei festeggiamenti prima poi dello stop, come sono andati questi 2 anni? Avete lavorato, avete continuato a lavorare a nuovi progetti, avete sognato poi il ritorno sui palchi che finalmente si sta avverando? Assolutamente sì, no, ci siamo tirati avanti un po' col lavoro, nel senso che abbiamo preparato dei pezzi nuovi, poi dopo diciamo che non ce la facevamo stare fermi, e allora ci è venuto in mente di prepararci un nostro spettacolo in acustico, e quindi abbiamo rivisitato i nostri grandi successi e abbiamo fatto uscire un album anche in acustico, e siamo potuti andare in giro a raccontare la nostra storia, anche perché un concerto dei Pancras con il pubblico seduto è praticamente improponibile, ci arriverebbe una sedia dopo la prima canzone che facciamo, e quindi avevamo portato in giro questo nostro show in acustico, dove tra una canzone e l'altra ripercorrevamo e raccontavamo la nostra storia. Quindi, a dire la verità, non siamo stati fermi tantissimo, però il nostro modo di suonare è un altro, è quello degli spazi aperti con i volumi al massimo, e adesso ricominciamo. Questi sono i primi 30 anni dei Pancreas, a cui speriamo ne seguano tantissimi altri. Cosa ci aspetta nel futuro per i Pancreas? Ma guarda, io ti dico la verità, i concerti dei Pancreas da sempre, più che un concerto, è una festa, è un'aggregazione di amici e di persone che comunque condividono le nostre stesse idee. Secondo me, cioè, sono proprio la nostra linfa vitale, finché la gente vorrà seguirci, boh, noi andiamo avanti, poi al massimo farò come Kate Richards, andrò su in Svizzera a cambiare il sangue, però noi vogliamo assolutamente andare avanti finché reggeranno le gambe. Paletta, io ti ringrazio e auguro chiaramente un buon 30° compleanno, anzi 30 e qualcosa compleanno ai Pancreas, e invito anche tutte e tutti ad esserci alla serata di venerdì 27 al Link. Esatto, grazie. Infatti volevo aggiungere una cosa, sarà una data particolare, nel senso che comunque sarà un festival che ci vedrà suonare con i nostri colleghi di una vita, ci saranno i The Roser, ci saranno gli Shandon, ci sarà la Paolino, Paperino Band, insomma, cioè, saranno ragazzotti come noi che anche loro da 30 anni sono in giro, quindi, e poi comunque al Link, che è un posto dove ci portiamo sempre, che lo portiamo sempre nel cuore, sarà veramente l'occasione per ricominciare da dove ci eravamo fermati. Io ringrazio Radio Fujiko, che ci vuole sempre bene. Grazie a te, ciao ciao Deli, ciao ciao, buona giornata a tutti.